A Cagliari arrivano i rifiuti della Campania, scontri nel porto ed il Viminale intensifica a Napoli squadre di intervento rapido contro le bande di violenti. Linea dura contro i violenti. Il ministro dell'Interno Amato ha chiesto ai vertici delle forze di sicurezza di rafforzare l'attività investigativa per individuare i responsabili degli episodi di teppismo e guerriglia di pianura. Bande che agiscono in modo non pianificato e senza una strategia complessiva, secondo l'analisi del Viminale. Per contrastare queste azioni sarà intensificata l'attività di squadre di intervento rapido. Intanto a Napoli è al lavoro il supercommissario per l'emergenza De Gennaro, che ha incontrato i vertici degli enti locali Bassolino, Iervolino e Di Palma. L'esigenza immediata è quella di togliere la spazzatura dalla strada. La raccolta è ripresa, una piccola parte dei rifiuti campani è arrivata in Sardegna, ma si dovranno allestire in fretta i 4 siti indicati anche nel piano del governo. Ancora nessuna decisione per la discarica di pianura. Dopo le manifestazioni e le proteste dei giorni scorsi, i cittadini del quartiere vivono ore di attesa, mantenendo il presidio davanti allo sversatoio. Enzo Danna, GR24, il Sole 24 Ore, Napoli. A prezzo di violenti scontri tra forze di polizia e circa 300 manifestanti sono potuti sbarcare nel porto industriale di Cagliari soltanto nella notte i 24 camion con circa 600 tonnellate di rifiuti del napoletano destinati a essere smaltiti entro 10 giorni nel termovalorizzatore del capoluogo sardo. I manifestanti, capeggiati dagli indipendentisti, hanno impedito per tutta la sera l'apertura del portellone della nave con la spazzatura campana partita da Napoli mercoledì notte. Le forze dell'ordine in tenuta antisommossa hanno caricato a più riprese anche con lacrimogeni. Fra le centinaia di persone al porto c'erano anche parlamentari e consiglieri regionali del centrodestra. Il sindaco di Cagliari, Emilio Floris, ha protestato al telefono con il ministro dell'Interno e ha accusato la regione di aver fornito la disponibilità ad accogliere una quota dei rifiuti campani senza concertazione con i comuni sardi. Il presidente Renato Soru, intanto, in una riunione ieri sera con gli amministratori locali, li ha invitati a collaborare con un atto di solidarietà alla soluzione dell'emergenza nazionale. Smentita la notizia circolata ieri dell'arrivo di altre due navi cariche di rifiuti da Napoli, stamane la tensione in Sardegna dovrebbe attenuarsi. Roberta Secci, GR24 e Sole 24 Ore, Cagliari. E finora 11 regioni hanno offerto il proprio aiuto a Napoli. In prima linea Emilia-Romagna, Piemonte e Toscana. No, da Lombardia e Veneto.